Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona giornata gastronauti vicini e lontani. Oggi una puntata dedicata ai bambini, sì, perché sicuramente è anche giusto andare a verificare innanzitutto come sono trattati i bambini nei ristoranti. Avremo anche molte sorprese, perché c'è chi ha posto dei limiti: dopo le 9 non sono ammessi i bambini al ristorante. Addirittura a Roma, e lo vedremo, c'è un cartello, insomma, non sicuramente molto leggero nei confronti dei bambini, e non si spiega tutto questo comportamento. Ma è un momento anche dei bambini in cucina, e vedremo anche questo, perché sicuramente non solo MasterChef Junior, ma in giro per il mondo ci sono dei bambini addirittura che sono balzati alla ribalta come chef da prima pagina. Quindi vedremo un po' tutto questo mondo, ma io voglio cominciare a parlarne con Federica Buglioni, che è presidente dell'associazione Bambini in Cucina, poi anche autrice assieme a Emanuela Bussolati di alcuni libri per bambini, Giochiamo che ti invitavo a merenda, e il club addirittura dei cuochi segreti. Bene, buongiorno Buglioni. Buongiorno, buongiorno. Ma ci spiega cos'è questa associazione Bambini in Cucina, cioè per difendere i bambini in cucina? No, è un invito ai genitori a riscoprire il piacere di stare in cucina con i bambini. Quando è nata l'associazione si pensava ancora che la cucina fosse un luogo pericolosissimo per i bambini. Adesso in questi anni le cose fortunatamente sono cambiate e c'è ancora un po' di strada da fare, di portare i bambini a divertirsi a fare le tagliatelle, gli gnocchi e non solo i dolcetti a forma di faccina, ma mi sembra che ci stiamo arrivando. Ecco, senta, ma difendete anche quando magari vi arrivano delle segnalazioni dei bambini maltrattati nei ristoranti? I bambini, secondo me, c'è un po' di strada da fare ancora in Italia, anche in quello sulla cultura del bambino. Fra qualche giorno è l'Epifania è il giorno in cui si celebra il bambino, il giorno in cui i sapienti del mondo andarono a onorare il bambino, quindi forse anche in questa chiave bisogna ricordarsi che il bambino è l'uomo di domani, che può darci gioia, e quindi siamo noi grandi a doverci piegare e imparare ad accoglierlo nel modo giusto. Ma io ho fatto questa trasmissione proprio perché fra 2 giorni è la Befana, e quindi proprio in un certo senso per onorare i bambini, perché non se ne parla quasi mai se non in televisione, quindi è anche giusto parlarne in radio, è giusto parlarne sui giornali. Ma abbiamo con noi anche un notissimo pasticcere, che è Luca Montersino. Buongiorno Luca. Buongiorno Davide. Luca ha fatto un libro che si chiama Marzagiochi e Stecco Dolci, molto simpatico, in cucina con i bambini. Ma Luca, tu lo hai fatto perché per i tuoi figli oppure l'hai fatto un po' per tutti? Ma no, io questo qua era un desiderio che avevo da tantissimi anni, che poi alla fine si è presentato in un libro, che era quello di portare i bambini ai genitori a giocare in cucina insieme, per staccarle un pochettino da certi magari giochi elettronici, o comunque per cercare di vivere dei momenti insieme a papà e mamma. E diciamo che il marzapane è un materiale molto molto versatile, che si può lavorare facilmente, non sporca tanto, è adatto ai bambini, e soprattutto poi lo si può mangiare, e a differenza della pasta di zucchero. Pronto? Abbiamo perso Montersino. Bene, cerchiamo di recuperarlo. Io torno a Federica Buglioni. Voi avete un blog, ecco, cosa succede su questo blog? Ci sono dei bambini stessi che vi scrivono? Noi abbiamo un sito dove ci sono anche degli articoli che scriviamo noi, e collaboriamo con altri 2 siti che sono Baby Green e Milano per i Bambini, dove abbiamo rubriche settimanali. Ci rivolgiamo, i libri che scriviamo si rivolgono ai bambini, mentre i blog e gli articoli si rivolgono ai genitori e agli insegnanti, proprio per convincerli e far loro riscoprire il fatto di lavorare con i bambini, ma anche di divertirsi insieme ai bambini in cucina, perché la cucina poi è un laboratorio che noi abbiamo tutti a portata di mano a costo zero, dove c'è l'esperienza tattile, c'è la chimica, c'è la fisica, la matematica, tutto quello che vogliamo. Soprattutto in pasticceria, vero Luca? Secondo me, cioè in pasticceria addirittura la chimica e la fisica sono più imponenti che nella cucina tradizionale. Assolutamente, assolutamente, è una scienza perfetta, non si può sbagliare, non si può, bisogna essere molto precisi. Ma dicevo prima, secondo me è un modo carino per far giocare il bambino con un prodotto che sia diverso da quei materiali malleabili che si possono lavorare, che poi diventano dei soprammobili che li metti lì e non li utilizzi. Invece il marzapane poi si può utilizzare per decorare una torta oppure per essere mangiato tal quale. Ecco, qual è la reazione? Tu immagino appunto con i tuoi figli, quale reazione hai avuto? Sì, l'ho fatto per due motivi. Prima di tutto per passare dei bei momenti carini e dolci con mia figlia, perché ne ho bisogno anch'io, ne ha bisogno anche lei, questo sicuramente. E poi soprattutto perché volevo far capire alle persone che poi leggeranno il libro, che avrebbero poi letto il libro, che il marzapane, modellare marzapane, fare delle decorazioni per le torte o comunque fare dei soggettini carini è una cosa anche semplice che si può fare, basta applicare della tecnica. E nel libro, passo dopo passo, tramite disegnini, fotografie, sono spiegate tutte le tecniche per arrivare a ottenere un orsetto, un cagnolino, piuttosto che un personaggio da mettere sopra una torta. E in più i bambini hanno bisogno di mangiare alimenti sani e genuini, e marzapane è quello di qualità, e nel libro spiego come farselo, perché esistono marzapane anche pieni di zucchero dove la mandorla la vedono veramente da lontano, invece il marzapane che va utilizzato è un marzapane ricco di mandorle e magari un po' più povero di zuccheri, così abbiamo il massimo della salute, visto che le mandorle sono una fonte incredibile di calcio, vitamine, insomma fanno benissimo. Beh, non a caso il tuo negozio, la tua pasticceria, sì, si chiama Golosi di Salute, e quindi sicuramente rientra in questo. Ma volevo chiederti un'ultima cosa, ma non è che già inizi tua figlia a prendere poi il tuo posto? Lo faccio sicuramente, no, scherzo, comunque dicono tutti, io amo tantissimo il mio lavoro, no? Di solito è un mestiere molto duro, quello della cucina e della pasticceria, che molti non augurano ai propri figli di farlo. Io, siccome lo ritengo il mestiere più bello del mondo e sono innamorato fuori del mio lavoro, non forzo i miei figli assolutamente, perché non bisogna farlo, però il giorno che mi dicesse mai papà voglio fare il tuo lavoro, mi farebbe il regalo più bello della mia vita. Bene, grazie a Luca Montersino. Ma ora voglio tornare da Federica Buglioni, perché ha scritto un libro che è Il Club dei Cuochi Segreti. Ma di che cosa si tratta, Federica? I cuochi segreti sono quattro bambini che formano una piccola banda e di nascosto un po' ai genitori, ma con l'aiuto dei nonni, fanno delle avventure in mezzo alla natura, sull'Appennino. I nonni li mandano a raccogliere il rosmarino in fondo al paese, li mandano nel bosco a prendere le castagne, i bambini scoprono la libertà e scoprono che il cibo viene dalla natura. E quindi le loro ricette si riempiono anche di emozioni, di gioia della convivialità e di tutto quello che sta intorno al cibo e che dà valore e bellezza al buon cibo. Bene, grazie a Federica Buglioni, linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Continuiamo questo viaggio tra i bambini, bambini in cucina ma anche bambini al ristorante, perché diciamo sono due aspetti completamente diversi, e quello del bambino al ristorante ha degli aspetti anche abbastanza controversi che poi vedremo per la presa di posizione di alcuni ristoratori. Ma parliamo del bambino in cucina, e chi meglio di Alessandro Borghese, che è giudice ai Junior Masterchef in onda su Cielo, ma già al secondo anno, può parlarci dei bambini in cucina. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Davide, ben trovato, buongiorno a tutti. Senti Alessandro, ma ci sono già dei bambini col talento a 8-10 anni, si vede già qualcosa dentro di loro? Ci sono già bambini che hanno questa voglia di conoscere il cibo del territorio, di quello che può essere una loro cultura, quindi con talento già i fornelli, perché vengono magari da famiglie o hanno genitori che apprezzano il buon cibo, apprezzano la buona tavola, quindi sì, assolutamente. Ecco, te in questi due anni che sei stato a Junior Masterchef, hai visto qualcuno di cui hai detto beh, questo farà carriera? Beh, ne ho incontrati due o tre che avevano proprio un talento spiccato per quello che può essere l'abbinamento, una sorta di istinto nel conoscere la materia prima, nell'abbinarla, nei colori, nell'impiattamento, quindi sai, il fatto pure di mangiare con gli occhi e di essere abituati a riconoscere il buon cibo, e quindi sono quelli che noi pensiamo possono essere i cuochi italiani del domani, quindi sì, si vede insomma il talento all'inizio quando sono in erba. Parliamo di ragazzi dai 9 ai 13 anni che comunque veramente a noi ci stupiscono, e ogni tanto pensiamo ma questo l'hanno fatto veramente loro o ci sono degli adulti dietro che hanno cucinato al posto loro. Rimani ancora, perché voglio andare in un ristorante di Polesine Parmense da Spigaroli, da Luciano Spigaroli al Cavallino, sì, Bianco. Perché? Perché Luciano Spigaroli, Cavallino Bianco, ha un menù per bambini da sempre. Luciano, ma lo utilizzano il menù per bambini? Assolutamente sì, e con grande piacere anche, direi. Ma guarda, io voglio ricordare un aneddoto che mi riguarda, che tanti anni fa, quando io ho due figlie, allora erano piccole, e andai a mangiare da Gualtiero Marchesi quando ancora era a Milano, e Gualtiero fa la famosa cotoletta tutta spezzata, ovviamente, no? E loro non lo sapevano, pensavano che avesse usato, per così dire, un riguardo come bambine. Allora si ribellarono e disse: ma noi vogliamo mangiare la cotoletta come la mangiano i grandi. Ecco, io credo che molte volte succeda anche questo, che certi bambini si ribellano al menù per loro. Noi tante volte abbiamo proprio dei bambini che dicono: no, ma io mangio come gli altri, adulto. Quindi per noi è un piacere, anche perché abbiamo notato che tanti bambini vogliono poi assaggiare il culatello, vogliono assaggiare le nostre cose, il che a noi fa tantissimo piacere, perché sono poi i nostri clienti del domani. Quindi. Alessandro, voglio tornare a Alessandro Borghese, ma tra questi tanti bambini che avete visto, c'è una tendenza al tradizionale o ci sono anche molti creativi? C'è una tendenza molto più al tradizionale, nel senso che tanti bambini vengono scelti un po' da tutte le parti d'Italia, quindi tutte le regioni, c'è una grande vastità di culture gastronomiche diverse, quindi sì, abbiamo la ragazza romagnola, abbiamo avuto, che insomma un po' una sfoglina in erba che faceva pasta all'uovo in una maniera incredibile, o comunque un altro bambino abituato col papà a fare il sanguinaccio. Addirittura. Assolutamente sì, quindi insomma è bello vedere dell'Italia in questi ragazzi che comunque saranno poi quelli che entreranno nelle cucine più avanti, fare un po' di cultura gastronomica, quindi loro hanno veramente questa passione, quindi non è tanto la smania da telecamera del programma televisivo, quanto invece proprio la voglia di fare questo di mestiere, quello è il bello di questi bambini. Ecco, loro sono indipendenti, cioè nessuno di voi li aiuta, questi bambini? No, noi gli diamo un consiglio, capiamo insomma la caratteristica, magari c'è chi è più portato a impiattare in una certa maniera, quindi magari gli diamo l'indicazione di più centrale, più verticale, di capire un po' le cromie, i colori, gli accostamenti tra dolce, tra salato, e da ognuno poi cerchiamo di tirar fuori il meglio, quindi gli facciamo fare un percorso, cerchiamo di farli migliorare durante l'arco del programma per sviluppare le loro caratteristiche. Luciano Spigaroli, ma cosa ne pensi tu di alcuni ristoratori che hanno messo, per così dire, dei paletti? Diciamo, in provincia di Brescia c'è stato un ristoratore che ha detto: dopo le 9 non sono ammessi i bambini. Un altro a Roma ha messo un cartello: sia agli animali, no ai bambini. Grosso, perché come ho detto prima i bambini sono poi i nostri clienti del futuro. Ovviamente può esserci il problema, io dico che tenga presente che parliamo sempre di bambini, quindi io consiglio delle avvertenze, noi siamo aperti ai bambini, abbiamo il menù dei bambini, però i genitori ad esempio come arrivano il menù dei bambini lo prepariamo subito, in modo tale che i bambini siano già impegnati ad assaggiare, e poi anche io ho l'esperienza di mie figlie, un po' come tu hai avuto delle tue, dei tuoi, un'ora i bambini a tavola lo reggono, sono bravi, tranquilli, dopo un'ora incominciano a avere qualche problemino, diciamo, cominciano a muoversi, eccetera. Quindi ovviamente quando si va al ristorante con dei bambini bisogna ricordarsi che si va al ristorante con dei bambini, quindi i tempi della seduta a tavola dei genitori non devono essere come quando si va con degli amici, insomma questo è un'avvertenza che io noto, ma infatti molti genitori quando vengono con i bambini un'ora e mezza, al massimo due, sono già alzati, quando vengono con gli amici stanno anche a tavola tre ore, insomma. Questo però è un assurdo vietare l'ingresso ai bambini, o anche perché a me, io vedo dei bambini che amano mangiare le coscette di rana, che amano mangiare piatti anche particolari, e che vuol dire che i bambini amano la cucina. Ecco, abbiamo con noi anche un padre che va al ristorante con addirittura due gemelli, che allo stesso tempo è collaboratore della guida dei ristoranti del Sole 24 Ore, quindi gioca questi due ruoli. Allora voglio chiedere a lui le sue esperienze, soprattutto come padre nella ristorazione. Buongiorno da Amedeo Palazzi. Ciao Davide, mi piaceva portare l'esperienza in realtà dei miei due bimbi, Antonio e Luigi, che dall'età di appunto pochi mesi sono al ristorante con me sempre, e che sono molto molto educati e ormai in grado di distinguere sapori, cibi, cotture, e soprattutto esprimono anche giudizi. Questa è la cosa più interessante. Ecco, ma io voglio sapere, cioè, l'approccio al ristorante. Come hai trovato la ristorazione, che è accogliente verso i bambini oppure pone dei paletti? Beh, allora, io abito nel nord Italia, dove c'è comunque un pochettino più di, diciamo, di attenzione alle famiglie che vengono al ristorante con i bambini. C'è anche da dire che molto c'è da fare, evidentemente, e anche da un punto di vista così organizzativo, la sala di un ristorante comunque fa ancora un po' fatica in Italia, secondo me, a accettare, soprattutto dei ristoranti che sono un pochettino più, diciamo, che hanno più capacità e più posizionamento, accettare i bambini. Però è anche vero che, insomma, è l'educazione dei genitori che poi fa di questa esperienza un'esperienza positiva per tutti, dalla sala appunto alla famiglia. Alessandro, anche se tu sei chef e fai master chef, cosa ne pensi del rapporto tra la ristorazione e i bambini in Italia? Ma secondo me dovrebbe essere, non dico, giustamente mi piaceva il discorso di prima, che hanno dei tempi più brevi rispetto a noi adulti, quindi insomma chi fa ristorazione o chi, genitori che portano i bambini al ristorante anche per un'esperienza, come succede spesso anche in Francia. Insomma, in Francia tante famiglie portano tutta la famiglia, i bambini compreso, nei ristoranti anche stellati per fare un'esperienza gastronomica. Questa sarebbe una cosa bella anche in Italia per divulgare un po' di cultura, che i bambini comunque sono delle spugne, assorbono tantissimo, piace sperimentare, piace assaggiare, poi magari non piace una cosa, non piace un'altra, però diversificare e far assaggiare varie cose ai bambini è una cosa importantissima. La ristorazione italiana sì, è ancora un po' impreparata sotto questo profilo, però si sta evolvendo, sono loro quelli che poi portano anche i genitori a voler, io vedo i bambini di Junior Masterchef, sono loro che trascinano i genitori in ristoranti stellati e non, per fare un'esperienza, per assaggiare, per provare, perché sono molto curiosi verso tutto quello che può essere il mondo gastronomico. Quindi è tutta una cosa in evoluzione, secondo me migliorerà di anno in anno questa situazione dei bimbi al ristorante, che per me vanno portati, perché io pure ho una figlia piccola che ama mangiare anche, ecco, il piccione o l'agnello, sapori un po' più forti. Perché? Perché vengono educati a farlo piano, certo, piano, insomma. Certo. Bene. Io sono molto positivo. Grazie a Alessandro Borghese, a Luciano Spigaroli e a Amedeo Palazzi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Continuiamo questo viaggio nelle cucine tra i bambini, nei ristoranti tra i bambini. Ma prima di passare la parola a un amico che è un grande chef, voglio leggere questa notizia che così mi è capitata l'altro giorno sfogliando dei giornali, e sono rimasto un po' perplesso. Flynn McGarry, 15 anni, dalle cene nel salone di casa alle cover del New York Times e alla classifica Forbes dei teenager più influenti. Insomma, questo fenomeno, 15 anni, sembra che stia sbalordendo gli Stati Uniti, ma io sono sempre convinto che questi fenomeni vengono molto gonfiati, specialmente appunto nel paese dell'hamburger. E allora io voglio chiedere a Bruno Barbieri, che oltre ad essere un chef di lungo corso, ma è anche giudice a Masterchef Junior, oltre che all'altro Masterchef. Ma Bruno, si può essere già così dei fuoriclasse a 15 anni? Ciao, buongiorno. Beh, gastronomicamente parlando, sì. Poi è chiaro che, come hai detto tu, in America, sai, probabilmente gonfiano molto le notizie, le cose. Io credo che comunque i ragazzi debbano fare il loro corso, debbano fare in qualsiasi situazione, in qualsiasi cosa, no? E quindi ci può stare che a 15 anni tu sappia fare qualcosina da mangiare. Noi facciamo un programma che è Junior Masterchef e ce ne siamo accorti che anche ragazzi più giovani sanno davvero già cucinare. Ma perché? Perché vivono in famiglie che comunque dove il cibo comunque ha una storia molto forte, dove c'è un'educazione alimentare importante. E poi, sai, io parlo dell'Italia. In Italia il cibo ha una sua storia, ha una sua... come posso dire, ha una sua storia profonda, no? Certo. Nelle case di tutti, quindi questo è mi fa specie un po' in America, voglio dire, che sappiamo benissimo che vivono molto di hamburger e di patatine, no? Sì, poi bisogna anche dire che questi fenomeni poi nel tempo si perdono. Io anni fa ho conosciuto un ragazzo che poi è venuto in Italia, io l'ho guidato in giro a una manifestazione sull'assaggio dei prodotti. Questo ragazzo aveva 14 anni, si chiama David Fisher, era balzato alla ribalta in tutti i giornali americani perché andava da solo nei ristoranti e si faceva dare il menù degustazione e poi scriveva, quindi era diventato un critico. È diventato un critico, però è sparito. Io da anni non so più niente. Credo che appunto sia un fenomeno di quelli americani che poi si sgonfiano. Però devo dire che portandolo in giro, facendogli assaggiare formaggi che lui non conosceva, ricordo ancora un assaggio di Castelmagno, ebbene questo ragazzo immediatamente descrisse questo Castelmagno in maniera così accurata, così precisa, che il produttore rimase allibito e mi chiese: ma questo da dove arriva? Quindi è vero, ci possono essere, come posso dire, dei talenti. Ecco, ma tu a Masterchef in questi due anni hai visto già qualcuno che hai detto: beh, questo è un talento? Beh, devo dire sì, io ne ho individuati qualcuno e devo dire che sono stati veramente dei fenomeni. Poi è normale che il ragazzo così giovane cresce, magari poi entrano delle altre cose nella vita, la scuola, tutte queste cose. Quindi ci può stare. E poi, sai, c'è chi magari ha la passione vera che continua a perfezionarsi. Però, sai, la strada per diventare un grande chef, e tu sai benissimo che hai scritto e scrivi di cucina da una vita, è lunga, faticosa e dura. Quindi i giovani devono saperlo. Cioè, oggi i chef sono diventati un po' l'icona, no? Un po' come i calciatori. Beh, tu sei ormai un'icona, eh? La storia non è questa, perché tu sai benissimo, conosci la mia carriera, certo. Sono stati tanti anni di grandi sacrifici e oggi raccontiamo, ma oggi vedi la televisione, oggi io faccio un altro tipo di lavoro, un altro tipo di comunicazione, a me serve la televisione per raccontare una storia italiana e per cercare un talento. Con Junior Masterchef io trovo dei talenti sempre più giovani, poi è chiaro che il percorso poi dipende da un sacco di altre cose, da un sacco di altre situazioni. Certo. L'importante comunque, diciamo, ai giovani è studiare, impegnarsi e non mollare mai nella vita. Ecco, rimani con noi, perché ora voglio andare in un ristorante da Massimo Biagiali, all'hotel ristorante Giardino. Buongiorno Massimo. Buongiorno Davide, buongiorno. Ecco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Massimo Biagiali, devo dire che è la prima volta in vita mia che sono entrato in un ristorante e ho visto qualcosa di veramente importante per i bambini, cioè un qualcosa che era tutto un menù studiato, ma un menù divertente. Ce lo vuoi raccontare, Massimo? Sì, dunque, noi siamo stati all'inizio dei precursori per ciò che concerne il discorso dei bambini al ristorante, anche perché devo dire onestamente che molte volte sono loro che decidono, no, la location o i ristoranti per i loro genitori, quindi è stata un'attenzione molto particolare legata a loro. Il concetto era quello di poter usufruire di quelli che erano praticamente i cibi che andavano di moda, va bene, e chiaramente i locali in questo momento, purtroppo devo dire, stavo sentendo un discorso legato all'America con Barbieri, che saluto cordialmente, Bruno, non so se si ricorda di me, abbiamo avuto modo, certo, comunque di incontrarci. Mi ricordo molto bene. Esatto, dunque, e quindi legato, non so, a dei fenomeni importanti che chiaramente sono dei marchi nel mondo, e rifarli con dei prodotti a chilometro zero, cioè restituire a loro quelli che potevano essere i sapori della terra tramite chiaramente questi prodotti che sono stati più bravi di noi questi qui a commercializzare. Quindi abbiamo fatto quelli che possono essere, no, un menù completo per un bambino che parte da un pregustativo chiaramente fatto con, non con la Coca-Cola ma con dei succhi, no, molto colorati, no, e quindi legati a quelle che possono essere anche dal punto di vista visivo alcune situazioni così che hanno accettato benissimo con quelli che possono essere no, un frittino, no, legato magari, qualcuno parlava della Findus, noi abbiamo preso del pesce fresco preparato in una determinata maniera, abbiamo preso del formaggio, una casciotta d'Urbino, no, che non è estremamente forte, visto e considerate che adesso, no, lo stereotipo del formaggio, qualche volta si parla chiaramente di qualcosa che secondo me è un succedaneo del formaggio, non sto facendo nomi, e quindi l'abbiamo unito a quello che potrebbe essere un miele da caccia, sempre prodotto in zona, quindi questi stuzzichini anche in questo caso, no, preparati, impanati e fritti. Abbiamo fatto praticamente, le mamme purtroppo non cucinano più, però noi ancora siamo legati alla tradizione di una pasta fatta in casa, come possono essere i cappelletti, i tortellini, va bene, sostituendoli chiaramente a quelle che sono le preparazioni con la panna, no, che li trovano da tutte le parti, no, una fondutina leggera, no, e chiaramente con del parmigiano appena grattugiato, e questi hanno gradito tantissimo, alcuni addirittura ancora, no, presentandoli con quelli che possono essere degli oli non eccessivamente importanti, da noi abbiamo un leccino, no, che è abbastanza delicato, e sempre con alcuni non amano praticamente il formaggio, ma chi li ama magari con scaglie di parmigiano non eccessivamente forte. Io ora ti fermo perché mi sta venendo, sì, fame, cioè se stiamo avvicinandoci all'ora, mi fermo, rimani con noi, perché ora andiamo, diciamo, in un altro fronte, andiamo con un personaggio, un ristoratore del centro, nel centro di Roma, il quale, diciamo, siamo riusciti ad avere il numero di telefono, ma non siamo riusciti a avere il ristorante, anche perché, insomma, è un po' provocatorio. Questo ristoratore tempo fa ha messo sì agli animali, no ai bambini. E allora, buongiorno Beppe Recchia. Buongiorno, buongiorno. Ci spiega la motivazione di questa, sì, di questo cartello così crudo? Beh, non è tanto per i bambini, ma per alcuni genitori di bambini. Ah, ecco. Perché, certo, certo, perché ci sono alcuni bambini, lei prima parlava dell'America, io l'America la frequento spesso, non ho mai visto comportarsi in un ristorante americano un bambino come spesso si vede che si comportino, che si comportano qui a Roma, cioè praticamente fanno di tutto e i genitori invece di, ma insomma, di redaguirli, di tenerli a bada, sono anche contenti che questi fanno così e non si rendono conto, insomma, che danno parecchio fastidio. Quindi diciamo che i piccolissimi no, e dai 14 anni in su vanno bene, sono quelli di una certa età che sono un po' irrequieti e quindi la colpa più che altro è dei genitori, non di loro. Quindi non è proprio. Senta, con i bambini. Ma qualche volta che si è presentata una famiglia con i bambini, lei come si comporta? Si vede subito, cioè mica tutti sono uguali, ci sono quelli educati e va bene, ci sono quelli maleducati che uno deve stare anche attento a dire ai genitori, insomma, che il figlio è maleducato, perché poi si arrabbiano pure. Comunque prima sentivo questa cosa che stava dicendo di questo bambino americano. Io penso una cosa, che è proprio da bambini Io al ristorante mi occupo della spesa, di andare a comprare i prodotti. E sentivo prima MasterChef, tutti questi corsi di cucina che ci sono. Ma a me mi sembra che ci si comporti un po' alla rovescio. Le persone vanno a fare i corsi di cucina o MasterChef senza sapere però cosa c'è prima, cioè senza saper fare la spesa. Cioè come se si va all'università senza passare per le scuole medie o il liceo. Io penso che bisognerebbe fare dei corsi di prodotti, cioè andare a fare la spesa. E forse da bambini, non dico la mia fortuna che ho avuto i nonni che mi portavano ai mercati generali di Roma dello Scienze, che è stata altro che scuola, altro che università. Ma cioè, quello, da bambini bisognerebbe essere portati a conoscere i prodotti, perché diceva prima l'altro ristoratore, dice le mamme non cucinano più, purtroppo sì, però succede anche che non conoscono più i prodotti, cioè, sì, qui c'è gente che, cioè, io ho visto dei corsi di cucina o dei MasterChef, non si riconosce una zucchina romanesca da una siciliana o napoletana. Ma guardi, quindi poi ti va a fare il corso, che corso fai? Recchia, distinguiamo le cose tra i corsi di cucina e MasterChef, che in fondo è uno spettacolo, ma voglio chiedere a Bruno Barbieri cosa ne pensa in proposito. Beh, voglio dire, diciamo che qui stiamo un po' estremizzando la cosa. È chiaro, io sono estremamente convinto che in Italia la cultura gastronomica, anche dopo MasterChef, si è davvero evoluta. La gente oggi cucina più a casa, diciamo la verità, ha ricominciato a scendere ai mercati, probabilmente ci vuole il tempo, un po' di tempo per riconquistare, diciamo, la piazza, per riconquistare i mercati. L'importante è rifare i mercati, perché attenzione, se noi andiamo per esempio a Verona, in Piazza delle Erbe, dove c'era un mercato meraviglioso, oggi ci sono delle bancarelle che vendono delle magliette, dei souvenir. Quindi io credo che sia necessario anche per le istituzioni, per i governi comuni di tante queste bellissime paesi, ricominciare a rimettere questi mercati. È chiaro che poi quando metti il mercato la gente ci va. Certo, a Roma, allo Stiense, in Campo dei Fiori, sono dei mercati meravigliosi, però in molte altre città è difficile trovarli. Io però devo dire questo, per quanto riguarda MasterChef Junior, i ragazzini, io ho visto, anche quest'anno se ne sono presentati tantissimi, sono molto più educati gastronomicamente parlando sulle verdure, sul cibo, quindi voglio dire, non è poi sempre così, non è poi sempre che questi ragazzi non sanno cucinare o mangiano solo degli hamburger. Bene. Grazie a Bruno Barbieri, grazie a Massimo Biagelli e grazie anche a Beppe Recchia, che è intervenuto e ci ha spiegato questo cartello. La ringrazio perché ci voleva una spiegazione. Ma sentiamo un po' questi bambini cosa combinano. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Ebbene, andiamo tutti a tavola con i bambini, fra due giorni è la Befana, la loro festa, quindi vediamo di parlare di loro a tavola. Abbiamo sentito varie esperienze, abbiamo sentito un padre che ha raccontato appunto le esperienze con due gemelli al ristorante, ho raccontato anch'io un aneddoto, ne posso raccontare anche un altro, che in una trattoria seduti con le due figlie c'era questa oste che aveva chiesto a me cosa mangiavo e poi le due figlie le aveva sottovalutate e non aveva chiesto niente, aveva detto bene, voi vi porto delle patatine con una cotoletta, e le mie due figlie si erano veramente ribellate, hanno detto no, vogliamo ordinare, vogliamo scegliere quello che c'è. Ecco, io credo che molte volte, vabbè, bambini molto piccoli sicuramente bisogna sceglierli per loro, però lasciarli anche fare, secondo me, è abbastanza importante. Gli si dà anche un po', come posso dire, una libertà di capire cosa possono mangiare, cosa non possono mangiare, e anche i quantitativi. Devo dire anche che non è così, portare dei bambini magari in ristoranti con menù degustazione lunghissimi probabilmente non è il caso migliore. Ma io di questo ne voglio parlare con un ristoratore di Villa Maria Luigia di Collecchio, in provincia di Parma. Buongiorno Umberto Ceci. Buongiorno dottor Paolini, buongiorno a tutti. Perché so che lei aveva avuto, mi ricordo, un'esperienza non molto positiva con i figli, per questo aveva deciso di fare poi il menù dei bambini. Era stato respinto... Sì, ho avuto un'esperienza sgradevole, parliamo di 20 anni fa, quando ancora... quel tipo di ristorazione da santuario era ostativa rispetto all'accoglienza delle famiglie. E ero in viaggio con mia moglie e mia figlia piccolina, e come molti miei colleghi programmavamo le vacanze in base ai ristoranti da andare a trovare, e in uno di questi purtroppo, insomma, ci hanno detto che i bambini non erano ben accetti. E chiaramente vivendolo sulla mia pelle non è stata una bella esperienza. E quindi ha deciso di fare il menù per i bambini? Sì. 20 anni fa ho incominciato a inserire una proposta per i bambini che poi ho esteso, diciamo, era riferita più che altro ai bambini piccoli, perché poi era un menù con le stelline in brodo, insomma, prosciutto, parmigiano, cose più semplici a un prezzo di 15 euro, però poi ho, come giustamente diceva lei, ho esteso al fatto che uno potesse scegliere, diciamo dai 5 anni in su, 8-10 anni, uno si sceglie liberamente dalla carta del menù perché vuole farsi un'esperienza gastronomica nel suo piccolo, e ce ne sono tanti, più di quanto possiamo immaginare, si incuriosiscono, assaggiano, alcuni hanno scelto anche la scaloppa di fegato d'oca, e quindi rientrano sempre in quella cifra, però gli do la possibilità di assaggiare delle materie prime, dei piatti che diversamente non avrebbero potuto assaggiare. Senta, in questi anni ha visto un'evoluzione dei bambini che vengono al ristorante? Cioè, sono diventati sempre più esigenti, o magari scelgono sempre più delle cose anche che non sono quelle tipiche, le patatine con la cotoletta, oppure diciamo che ancora sono 2-3 piatti che sono quelli che poi alla fine i bambini scelgono, o le mamme scelgono per i bambini? Ecco, la differenza la fa molto l'atteggiamento dei genitori. Quando li lasciano scegliere, parlo dei bambini ovviamente che sono già autosufficienti nella scelta, quindi che non hanno bisogno di scaldare la pappa, e li lasciano leggere il menù, negli ultimi anni è assolutamente cambiato l'approccio. Sono più curiosi anche al fatto che guardano molte trasmissioni in televisione. Eccoci. Sì, no, assolutamente. Influiscono. influiscono. Bene. E poi magari non riescono a finire il piatto, però è molto importante almeno l'approccio alla curiosità che a quell'età devono avere assolutamente. Ora sentiamo uno chef che ha scritto un libro di ricette che sono Ricette per ragazzi. Buongiorno Alessandro Circello. Buongiorno a lei e grazie per l'invito. Buongiorno. Senta Alessandro, come mai lei ha deciso di scrivere questo libro? Beh, da diverso tempo su Rai Gulp ho questa rubrica Ricette per ragazzi che in pochi messaggi, diciamo in maniera semplice, cerchiamo di far fare una sana merenda, una sana prima colazione, un sano pranzo e una sana cena, e soprattutto impariamo a scegliere gli ingredienti e cucinarli in casa insieme con l'aiuto dei genitori ovviamente, e magari di evitare magari qualche merendina di troppo. Ecco, quindi questo ricettario è fatto per far cucinare assieme genitori con i ragazzi? Esatto, sì, per dare dei consigli, anche perché oggi come oggi mangiano sempre meno la frutta, la verdura, anche il pesce azzurro, dare delle semplici idee, faccio l'esempio, ecco, il merluzzo o le verdure, due ingredienti che chiaramente sembrano un po' ospedalieri e che i bambini come al solito rifiutano, giocare un po' con le consistenze, con i sapori. Faccio l'esempio, c'è uno stecco di merluzzo, per dire, del merluzzo tritato semplicemente con pochissime uova e tanta frutta secca, quindi oli essenziali messo in uno stecco, quindi da passeggio a modo di croccante gelato, no? L'idea del croccante che andava di moda tanti anni fa, quindi far giocare i giovani con le croccantezze, con il dolce, con il salato, un po' come a volte succede quando si mangiano dei panini delle multinazionali, certo, o magari l'effetto croccante delle patate. Ma la cosa che mi ha colpito è il cappuccino pop. Questa è, diciamo, una cosa molto divertente che ho letto nel suo ricettario. Lo trovo molto simpatico, molto, molto divertente. Lei ha parlato di verdure e di frutta, ma io devo dire, e devo fare così un richiamo a tutti i cuochi, gli chef, quelli magari che hanno stelle e stelline, che sono, fanno il menù degustazione, che non si trova più un piatto di insalata. Cioè, se un consumatore, un cliente entra dentro un ristorante, cioè chiede a parte un'insalata, ormai è diventato come un ago nel pagliaio, cioè è difficilissimo trovarlo. Oppure uno vuole il cestino di frutta alla fine, cioè non lo trova, perché ormai così c'è questa tendenza, già il dibattito si mangia prima, si mangia dopo la frutta, però non si trova più. Quindi io credo che questo vada anche a coinvolgere i bambini, perché la frutta sicuramente i bambini la mangiano, ma andare in un ristorante importante, cioè uno chiede mi dà una mela, mi dà una pera, mi dà un cestino di frutta, non si trova. Lei cosa ne pensa, Alessandro? È vero, anche perché nella media ristorazione di frutta si trova soltanto ananas e fragole ormai sempre. Ecco, no? Sì, tutto l'anno. Esatto, quindi sembra che tutta l'altra frutta sia bandita dalla ristorazione. Beh, già fare una frutta scaloppata, tagliata, come diciamo andava molto di moda, ecco, già potrebbe essere una valida alternativa. Le insalate, sì, in effetti è un tasto dolente, perché si utilizza magari una macro porzione di insalate in qualche antipastino creativo. Esattamente. Ma si gioca poco, magari con tante insalate, dove dentro ci si possono mettere tanti elementi, dalle arance o i germogli, quindi tanti elementi antiossidanti. Ci si può mettere anche un secondo, per dire, d'estate, dal tonno fresco al pesce azzurro, lo sgombro, per dire, che costa pochissimo, o tante carni bianche che fanno bene. Cici, arriva la richiesta nel suo ristorante di il cestino di frutta? No, cestino di frutta no, direi che purtroppo, essendo io un grande amante di frutta, no. Cerco di fare dei dessert in cui ci sia sempre presente stagionalmente qualcosa con la frutta, o delle pesche caramellate, o dei sorbetti alla frutta, quello senz'altro. Come frutta fresca no, verdura sì, verdura assolutamente sì, o grigliata o insalata, questo sì. Circello, senta, il suo libro, Ricette per ragazzi, lei ha figli? No. Ah, quindi è interessante capire la motivazione allora. Perché? Perché ha visto che pochi si occupavano dei ragazzi? Beh sì, da qualche anno io mi sono sempre occupato da 10 anni di in tantissime rubriche televisive di cucina. E proprio l'idea del direttore, dei ragazzi, che mi ha dato questo spunto di, giustamente, dato che non si occupa nessuno, spesso e volentieri, quindi alimentazione legata ai giovani, e quindi di fare questa rubrica televisiva e cercare di dare dei messaggi corretti, soprattutto entrare anche a leggere le etichette su alcuni ingredienti, perché spesso e volentieri troviamo in tantissimi prodotti che prendiamo volutamente al supermercato, perché la maggior parte della gente non ha tempo e va lì, o giustamente ci sono oli vegetali, oli di palma, quindi delle idee per fare una colazione nutriente e soprattutto per abbinare anche tante cose, utilizzare i centrifugati, spadellare le verdure piuttosto che andarle a bollire, faccio l'esempio degli spinaci, che poi giustamente quell'acqua non andrà a bere nessuno, quindi preserviamo tante caratteristiche, mangiare i peperoni crudi che hanno la vitamina C, per dire d'estate, o i spinaci crudi d'estate che hanno la vitamina C, dato che ovviamente non ci sono le arance, quindi dare dei messaggi semplici, anche possono sembrare scontati e banali, ecco, ma a volte questi dettagli fanno la differenza. Senta, lei cosa ne pensa di questo cartello che ha messo questo ristoratore nel centro di Roma, sì animali, no ai bambini, e allo stesso tempo nel bresciano invece c'è stato un ristoratore che ha detto no, dopo le 9 di sera non voglio bambini? Ma in effetti non era a conoscenza di questa cosa, ma chiaramente, ecco, un po' magari offensivo per i giovani che spesso e volentieri vengono poco considerati, e quindi ricordo dei grandi alberghi con cui ho lavorato sono sempre stati attenti, un po', cioè, nel senso, lascia riflettere, ecco, questa scelta. Bene, grazie a Umberto Ceci, di chef di Villa Maria Luigia di Collecchio, e grazie a Alessandro, allo chef Alessandro Circello, ricette per ragazzi. Ma io volevo chiudere un po' questa trasmissione, visto che fra due giorni è la Befana, quindi la festa dei bambini, con una canzone che, per fare un posto a tavola proprio ai bambini, quindi andando un po' contro a chi non vuole i bambini al ristorante. Certo, saranno rumorosi, qualche volta disturberanno i vicini, ma credo che sia sempre un problema dei genitori e non dei bambini. Bene, allora a questo punto non mi resta che augurare a tutti i bambini buona Befana, magari che meno carbone e magari più buoni cibi, e credo che molti bambini, alcuni di questi bambini di cui abbiamo parlato, probabilmente diventeranno dei grandi talenti, speriamo veramente così, tant'è vero che le scuole professionali nell'ultimo anno hanno incrementato chi vuole fare lo chef e non il cuoco del 30% gli iscritti. Beh, speriamo che magari di questo 30% chef ne diventi qualcuno. Buona Befana da Davide Paolini.